che mai più io scorderò, mi rimane dentro il cuore con la mia gioventù. Era tanto tempo fa, ero bimba e di dolore, io piangevo nel mio cuore, non volevo entrare là. Non vorrebbero.